America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, apro con una tragedia americana. Sentiamo. Ormai lo avrete saputo dalle cronache, l'America si trova improvvisamente travolta da un conflitto razziale che ha portato poche ore fa l'uccisione per vendetta di 5 poliziotti a Dallas. Altri 6 poliziotti sono stati feriti, alcuni gravemente. Il tragico bollettino medico potrebbe anche essere peggiorato ora, mentre vi parlo. Gli spari venivano dall'alto, da 4 cecchini diversi, coordinati nel tendere l'imboscata mortale alle forze di polizia. Gli sparatori si erano appostati lungo il percorso di una marcia di protesta di almeno 1000 persone, una protesta contro le recenti uccisioni di innocenti afroamericani in Louisiana, in Minnesota, per mano della polizia. Ecco, la protesta si era estesa a molte città americane dopo che la fidanzata della vittima in Minnesota, in una cittadina chiamata Falcon Heights, aveva messo su internet un video, beh, davvero tragico. Sentiamo. We got pulled over for a busted tail light in the back. And the police just, he's covered. They killed my boyfriend. He's licensed to carry. He was trying to get out his ID and his wallet out his pocket. Ecco, dalla voce percepite la drammaticità del momento. Il video mostra il fidanzato ferito a morte al volante in un bagno di sangue. È ancora vivo nei primi momenti delle immagini. Fuori dal finestrino, al finestrino aperto, si vede il poliziotto ancora con la pistola spianata, con una mano quasi tremante, parla nervosamente, e poi di sottofondo c'è la voce della ragazza, della fidanzata, che invece parlava con voce molto calma in questa videocamera del suo telefonino. Poi ogni tanto mostrava il suo volto e offriva questo resoconto in diretta di quello che era accaduto. Il video, beh, devo dire, un documento incredibile, agghiacciante per il realismo della situazione. È andato virale, naturalmente, è stato visto da quasi 5 milioni di persone, ha generato l'orrore che ha portato alle decine di dimostrazioni in tutto il paese e alla fine a questa brutta, orrenda vendetta di Dallas. Ecco, in questo video si sente questa ragazza che racconta la dinamica degli eventi. Filardo, il fidanzato, prendeva la patente e gli hanno sparato dietro una bambina di 4 anni, la figlia della ragazza. L'uomo, Filandro Castiglie, 32 anni, un nutrizionista, nel video ancora vivo, e poi si vede il volto rovesciato all'indietro che non si muove più. Devo dire, è una cosa tragica perché ci mostra una morte in diretta. A quel punto la donna grida, il poliziotto minaccia, e la figlia da dietro, una bambina di 4 anni, pensate allo shock, che rassicura la madre: ci sono qua io per te, mamma. Ecco, non ci sono parole ovviamente per descrivere le sensazioni che dà un video di questo genere. E la strage di Dallas è la conseguenza orrenda di un conflitto esploso negli ultimi 2 giorni, prima in Louisiana, poi in Minnesota, con l'uccisione, vi dicevo, a sangue freddo di 2 afroamericani, fermati dalla polizia tra l'altro per un semplice controllo, perché a Falcon Heights, per esempio, c'era un fanalino di coda rotto. In entrambi i casi i poliziotti hanno reagito con nervosismo perché temevano che ci fossero delle pistole. Barack Obama, da Varsavia, dove si trova per uno storico vertice della NATO, è stato informato delle 2 uccisioni e ha parlato prima che fossero poi uccisi anche i 5 poliziotti, per cui qualcuno dice: ma forse questo suo messaggio ha scatenato qualcosa. E ieri notte si è diffusa la sua voce, con una voce rotta dall'emozione, perché anche lui aveva visto questo struggente video dell'incidente in Minnesota. E il presidente dice: sono episodi che feriscono nel profondo, dovrebbero preoccuparci tutti. Questo non è solamente un problema per la popolazione nera, è un problema per gli Stati Uniti tutti, perché è sintomatico di una disparità razziale. Poco dopo la sparatoria di Dallas, ora il lutto nazionale e le condoglianze ad Obama dei 54 leader presenti al vertice. This is not just a black issue. This is an American issue that we should all care about. All fair-minded people should be concerned. Ecco, credo che sia importante in chiusura darvi un breve resoconto anche di quello che succede a Varsavia, perché è un vertice NATO storico, quello che si tiene in questi due giorni, per la nostra sicurezza collettiva. In realtà doveva essere un vertice come tanti altri. Invece, con l'Europa in difficoltà economica, oltre che politica, con Vladimir Putin che preme ai confini orientali, il vertice NATO di oggi diventa improvvisamente chiave, più sul piano politico che su quello militare, devo dire, perché sarà il primo appuntamento dopo Brexit, il primo momento in cui si potrà valutare in modo concreto l'impatto anche psicologico del voto britannico per uscire dall'Europa. Ci sono 28 paesi membri, ci sono altri 26 paesi che partecipano agli incontri, c'è Ban Ki-moon delle Nazioni Unite, c'è la Banca Mondiale e tra l'altro i leader sono tutti presidenti del Consiglio, capi del governo, presidenti della loro nazione. Vediamo le decisioni. La più importante riguarda lo schieramento in modo permanente di 4 battaglioni della NATO in paesi confinanti con la Russia. Ecco, questo è un fatto nuovo. Negli incontri del Galles 2 anni fa si pensava soltanto a una forza mobile. E un altro elemento riguarda l'aumento fino al 2% del PIL dei contributi militari, delle spese militari per ciascun paese, spese interne naturalmente. Ecco, questo è un obiettivo che per ora è stato raggiunto solo da alcuni paesi, da 5 paesi sui 28. Ecco, sono tutti elementi questi che aggiungono pathos a questo addio all'Europa di Obama come presidente americano, un addio che devo dire è alquanto malinconico. Per il presidente americano c'è anche la missione di riaffermare l'impegno del suo paese alla NATO, perché la percezione della confusione americana non deriva solo da incertezze o possibili errori di Obama nei confronti di Putin, ma dal fatto che quasi il 50% degli americani è pronto a votare per Donald Trump, per un personaggio che non ha alcuna esperienza di affari di Stato e di diplomazia internazionale e che ha messo nella sua piattaforma la scelta di lasciare la NATO. Ecco, sarà questo l'altro grande tema collaterale alla difesa comune oltre a Brexit, perché se l'attacco al multilateralismo e al sistema di alleanze che ci hanno dato pace e stabilità per oltre 70 anni venisse anche dal paese fondatore dopo le elezioni, beh, allora potremmo tutti tirare i remi in barca e prepararci al peggio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, purtroppo abbiamo parlato ancora di conflitti razziali negli Stati Uniti, di questo grilletto facile della polizia, e dunque vi propongo, per ricordare questo giovane di 32 anni ucciso così quasi a sangue freddo per niente, una canzone del 68. Vi ricordo che ci fu l'anno delle grandi proteste, fu fra il 69 e il 70, quindi subito prima, di James Brown. Say it loud, I'm black and I'm proud. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.